Diciamo che è partito tutto dallo scorso luglio, le locuste, le cavallette sono partite dallo Yemen e si sono poi via via spostate verso l'Africa dell'Est, in particolare il Corno d'Africa, quindi Kenya, Somalia, Etiopia principalmente, ma adesso queste locuste stanno toccando anche paesi come l'Uganda, il Sud Sudan, il Sudan e la Tanzania. Purtroppo si tratta di un gravissimo problema perché siamo in presenza di, grosso modo, si stima ci siano 200 milioni di insetti che in un giorno possono consumare cibo pari a quello che soddisfacerebbe 90 milioni di persone e stanno letteralmente distruggendo i raccolti in paesi dove le persone già stanno soffrendo di un'insicurezza alimentare molto forte. In questo momento ci sarebbero 10 milioni di persone in grave insicurezza alimentare in tutti questi paesi. In particolare tra questi 10 milioni di persone, voi vi occupate principalmente insomma di bambini, ma non solo, sono 4 milioni circa i bambini che rischiano, che già soffrono di malnutrizione e che rischiano ancora di più. Sì, chiaramente in questa situazione i bambini sono i più vulnerabili, purtroppo, come sempre, già in paesi appunto dove i problemi della malnutrizione erano molto forti e quindi questa distruzione dei raccolti, ma anche dei pascoli, alcuni di questi paesi, in alcune zone di questi paesi le persone vivono dell'allevamento e quindi tutto questo rischia di compromettere ancora di più la loro situazione. E poi oltretutto ci sono anche delle conseguenze indirette, cioè mi spiego meglio, la necessità in qualche modo di scacciare le locuste. Ricordiamo che l'agricoltura in alcuni paesi è veramente un settore che fa affidamento a tecniche rudimentali, quindi in molti casi scacciare le locuste significa prendere degli oggetti di metallo in mano e cercare di fare rumore, quindi in questa attività, cercare di poi trovare qualcosa da mangiare, molto spesso i bambini non vanno a scuola, aiutano nei campi e quindi ci sono anche questo tipo di conseguenze che stanno acquistando una dimensione sempre più forte, più importante. I bambini vanno naturalmente aiutati e protetti da questo tipo di situazione, in una situazione di grande, di ulteriore vulnerabilità dovuta alle condizioni endemiche di questi paesi, alla povertà, ai conflitti armati e soprattutto ai cambiamenti climatici. Questi paesi vivono periodi molto siccitosi a periodi che portano a inondazioni. E questa è proprio l'origine dell'invasione di queste locuste, di queste cavallette. Il susseguirsi di questi climi estremi ha portato appunto a questa invasione. Il Corno d'Africa, questi paesi hanno sofferto di una fortissima siccità che però è intervallata da precipitazioni breve ma molto molto intense e le cavallette trovano terreno fertile appunto quando la terra è umida, riescono in questo caso a depositare le uova, quindi il terreno reso molto duro dalla siccità, quando poi piove sopra questo terreno l'acqua appunto non ristagna e queste sono le condizioni migliori appunto per il proliferare di queste cavallette. Quindi la crisi climatica, ahimè, è proprio l'origine del problema, per questo che occorre naturalmente andare incontro ai bisogni immediati che sono soprattutto legati a bisogni alimentari, ma poi bisogna trovare delle soluzioni di lungo termine che possono aiutare queste comunità ad adattarsi appunto anche a questi forti cambiamenti climatici. Save the Children è attiva in quei paesi, in particolare in cosa consiste il vostro impegno? Sì, naturalmente noi siamo presenti in tutti questi paesi da ormai molti decenni, abbiamo dei programmi a 360 gradi per quanto riguarda la cura dei bambini. In questo specifico caso noi naturalmente lavoriamo per combattere l'insicurezza alimentare, quindi per combattere la malnutrizione dei bambini, strappandoli in molti casi proprio dalla morte con interventi sanitari o di somministrazione di cibo altamente proteico, ma in questo caso appunto stiamo lavorando molto anche con le comunità per cercare di trovare delle forme di reddito alternativo per chi ha perso tutto, per chi ha perso il bestiame, per chi ha perso il raccolto e quindi cercando di rafforzare appunto queste comunità e la loro capacità appunto di trovare forme di reddito alternativo. Negli ultimissimo periodo appunto stiamo cercando di capire come risolvere anche il problema legato all'educazione e al fatto appunto che tanti bambini cominciano ad essere fortemente assenti da scuola e questo naturalmente avrà un'implicazione sul loro futuro molto importante.